Benvenuti a tutti, prima puntata di NBA Week con la nuova programmazione. Dopo un'intera stagione passata sul flusso streaming di Radio Big World il giovedì sera alle 21.30, inauguriamo l'ultima fase della nostra avventura spostandoci al venerdì sera, stesso orario. Questo per lasciare spazio ad un nuovo programma che si chiama Ti racconto una storia al volo dell'Aquila. Se per caso non avete avuto la comunicazione e vi siete connessi ieri sera sullo streaming di Radio Big World, ammesso che ci stiate ascoltando attraverso Radio Big World, oppure se avete intenzione di cercare questa nuova trasmissione, avrete comunque sentito la mia voce. Perché Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila è condotta dal sottoscritto e da un compagno di avventura che si chiama Fumino. E si propone di indagare l'identità cittadina della provincia italiana attraverso le storie di una squadra di calcio locale. Una passione vissuta in modo verace, identitario, popolare. Come esempio usiamo la squadra della nostra città per indagare la realtà sociale e culturale della stessa. Si parla quindi di Montevarchi, un paese di poco sopra i 20.000 abitanti nel centro della Toscana tra Firenze, Arezzo e Siena, e lo si fa attraverso le storie del Montevarchi Aquila Calcio 1902. Si tratta della società sportiva più vecchia della regione e ripercorreremo storie ed aneddoti intervistando puntata dopo puntata i protagonisti e gli appassionati che la seguono da decenni, se non da una vita, alla ricerca della cosiddetta montevarchinità, che per la verità in linea teorica non dovrebbe discostarsi troppo dalla percezione identitaria di appartenenza di un'altra qualsiasi cittadina di provincia nazionale. Dategli quindi un ascolto se vi va, cercateci pure su Facebook o direttamente dalla nostra pagina Facebook di NBA Week, dove troverete i link nelle comunicazioni di spostamento della messa in onda della nostra trasmissione. Esaurito questo doveroso preambolo promozionale, veniamo all'NBA. Con la schiacciante vittoria dei Cleveland Cavaliers sui Boston Celtics in gara 5 al TD Garden, vittoria dove LeBron James ha superato Michael Jordan nella classifica dei migliori marcatori playoffs di tutti i tempi, siamo giunti esattamente allo stesso punto in cui eravamo circa 365 giorni fa. Per il terzo anno consecutivo il titolo se lo giocheranno i Golden State Warriors contro i Cleveland Cavaliers. Due anni fa ebbero la meglio quelli dell'Ovest, complice il roster decimato dei Cavs con Love fuori gioco e Irving out ad inizio finali. Lo scorso anno invece LeBron e compagni, dopo 7 incredibili partite e dopo essere stati sotto da prima 2-0 e poi 3-1 nella serie, vinsero gara 7 all'Oracle con l'Arena dopo aver conquistato le ultime partite di una sfida partita in sordina ma accesasi a partire da gara 4. Come abbiamo detto più volte durante l'anno e in occasione delle due sfide tra queste due squadre regular season vinte una a testa, se non si tratta dell'unica vera rivalità nell'NBA moderna, poco ci manca. Le due squadre si sono letteralmente rincorse negli ultimi due anni con il desiderio di dimostrare chi realmente fosse migliore dell'altra e quindi con la volontà di vincere il titolo NBA. Dopo la sconfitta in finale dello scorso anno, una Golden State che aveva appena schiantato il record di vittorie stagionali che resisteva dai tempi dei Chicago Bulls del 1996, è corsa ai ripari firmando il giocatore forse più forte dopo LeBron James in circolazione nella Lega. Si tratta di Kevin Durant. Sappiamo benissimo tutta la storia, ma sarà inevitabile tornarci sopra quantomeno per analizzare la presenza di questo assoluto fenomeno, indubbiamente serio e principale indicatore di differenza tra questa che sta per partire e la finale dello scorso anno. In realtà per Golden State le cose sono cambiate e non poco. L'arrivo di Durant ha causato un inevitabile cambio di struttura di gioco all'interno della squadra. Come se non bastasse, in panchina per questi playoffs praticamente non si è mai seduto l'artefice di una stagione ottima ma non certo devastante come quella precedente, il coach Steve Kerr, costretto a convivere con pesanti fastidi alla schiena che vede le partite dagli spogliatoi quantomeno quando Golden State gioca all'Oracle Arena. Per un Durant che arriva sono partiti giocatori come Harrison Barnes e Andrew Bogut. È arrivato inoltre un centro potenzialmente titolare ma non certo entusiasmante come Zaza Pachulia. Non certo potenziale intimidatore o rim protector che dir si voglia del livello del Bogut partente e che se non fosse stato troppo sfortunato quest'ultimo l'avremmo rivisto proprio nel roster dell'altra finalista. Malgrado questo, l'innesto di un giocatore sorpresa come JaVale McGee ha potenzialmente dato alla squadra quella metà che mancava ad un giocatore limitato e tecnicamente come Zaza per raggiungere il livello di centro dignitoso, in questo caso a due teste. JaVale ha giocato una stagione più che positiva ed ha alzato notevolmente il livello in questi playoffs. Con Con l'arrivo di Kevin Durant, quindi, quella che era una struttura di gioco rodata e ben oliata negli ultimi anni, con invisibili decisivi come appunto Barnes e Bogut, ma anche giocatori come Spades, ad esempio, oppure Zili, è inevitabilmente mutata. Oltre a questo, memore evidentemente della stagione passata in cui la squadra, giocando sempre al 1000% in stagione regolare, ha dovuto scontrarsi con infortuni e cali di forma nei playoffs, Kerr ha limitato il minutaggio al massimo delle sue tre stelle principali, Durant, Curry e Klay Thompson, per evitare sovraccarichi. Il risultato lo si è visto il giusto, nel senso che se Stephen Curry ha dimostrato di aver beneficiato non poco della stagione più riposante, giocando ad oggi dei playoffs devastanti, Durant ha dovuto riprendersi da un infortunio occorso nella seconda metà di stagione e da un piccolo acciacco che lo ha tenuto fuori per le due partite del primo turno. Quindi, a mio avviso, seppur abbia già dato notevoli segnali importanti, lo vedremo forse al 100% solo a partire da gara 1. Klay Thompson invece è progressivamente scomparso in una post-season che lo sta vedendo tirare malissimo e consapevolmente poco. Tuttavia, grazie anche al solito cuore di Draymond Green ed un supporting cast che continua a contare in giocatori come Sean Livingston, i Warriors si presentano ai nastri di partenza delle finali 2017 forti di un 12 vinte e 0 perse in questi playoffs e riposatissimi dal fatto che hanno sfruttato al meglio il tempo potenzialmente libero tra una serie ed un'altra per riposarsi, riorganizzarsi e riprendersi. In effetti, se guardiamo però a questo fattore, Cleveland non è che sia messa proprio così peggio. Di fatto LeBron e compagni in questa post-season di partite ne hanno perse soltanto una, e stiamo parlando di gara 3 in casa contro Boston. King James ha giocato almeno 12 delle 13 partite disputate in modo devastante, seguendo la direzione intrapresa dall'inizio della stagione, dando la sensazione di poter controllare il proprio gioco e quello dei compagni a piacimento, inserendosi ed inserendo parziali decisivi quando lo riteneva necessario. A differenza di Curry, non si è certo riposato né limitato fino a questo momento, ma la sua tenuta fisica impressionante ed il suo atletismo mai mutato se non progredito malgrado l'età ci hanno regalato, almeno a me, la percezione di trovarci di fronte ad un qualcosa di dominante per la Lega come mai avevamo visto. Non voglio entrare nelle solite discussioni su chi sia meglio tra i più grandi di sempre, dico solo che se abbiamo visto dominare stagioni o post-season da giocatori come Bill Russell, Will Chamberlain, Magic Johnson, Isaiah Thomas, Michael Jordan, Shaquille O'Neal o Kobe Bryant, quest'anno ci siamo trovati di fronte ad un metodo totalmente diverso di dominare la stagione, la Lega e la squadra che cercherà di bissare il successo ottenuto poco meno di un anno fa. La percezione che si ha guardando James è quella di un giocatore che non ha mai smesso di crescere, una sorta di robot quasi perfetto sotto tutti i punti di vista, non ultimo quello tecnico, ulteriormente a livello di controllo mentale. Accanto a lui, in una struttura di squadra simile a quella degli Warriors perché orchestrata su tre grandi giocatori al comando, un Kyrie Irving che nella serie contro Boston ha pesantemente aumentato il proprio livello di gioco, che lo scorso anno è stato più che decisivo nelle ultime 7 gare di finale, reduce forse da una stagione un attimino di livello inferiore rispetto a quella passata a livello di impatto, ma comunque devastante. Terza opzione offensiva invece è un Kevin Love che lo scorso anno ha sofferto tantissimo in finale e più generalmente nei playoffs, ma che quest'anno sta mantenendosi quantomeno in una buona media di impatto, seppur con numeri appunto da terza scelta d'attacco, ma importantissimo per il contributo al rimbalzo e sotto i tabelloni. Il gioco sporco, che lo scorso anno è risultato fattore decisivo in finale, è sempre nelle mani e nelle responsabilità di Tristan Thompson, mentre gli specialisti dietro l'arco come J.R. Smith e i nuovi arrivati Corver e Williams hanno regalato indubbiamente una parvenza di solidità in più a quella squadra che, ripetiamolo di nuovo, si presenta alla terza finale consecutiva come campione in carica. Pensiamo quindi a questa finale come se fosse una bella tra queste due squadre, un'unica e lunghissima gara 7, lunghissima, auguriamocelo quantomeno. Obiettivamente il livello di questi due roster si è ancora dimostrato ben distante dal resto della Lega anche in questa post-season, per quanto criticata e definita in linea di massima poco entusiasmante da gran parte degli osservatori. Personalmente posso dire che tutto è andato come facilmente prevedibile, è vero, ma che l'epilogo che vedrà di nuovo di fronte queste due squadre era principalmente auspicabile dall'inizio dell'anno proprio per dare un vantaggio ad una o all'altra in materia di rivalità. Con i roster al completo e l'arrivo di Durant non ci sono scuse. Forse, e dico forse, la lancetta del talento pende dalla parte degli Warriors, ma lo era principalmente dai risultati ottenuti in stagione regolare anche lo scorso anno. Andiamo quindi brevemente ad analizzare le principali sfide incrociate tra i giocatori che si affronteranno a partire da giovedì notte. Quindi, per voi che ascoltate questo podcast su Radio Brick World, si sono già affrontati ieri notte. Per gli altri che lo stanno ascoltando in esclusiva nel canale di Belli 13, stanotte, tra qualche ora, vedrete la prima partita tra queste due squadre, tra l'altro trasmessa gratuitamente in streaming nel sito di Sky Sport. Proveremo così, attraverso questa piccola analisi, a formulare un piccolo pronostico e quindi prepararci al meglio per goderci quella che mi auguro possa essere una entusiasmante serie finale di 7 partite. Proviamo ad analizzarli ruolo per ruolo, generalizzando e dividendo le guardie dalle ali e valutando singolarmente il centro. Perché è vero che nell'NBA di oggi i vecchi ruoli sono praticamente scomparsi e che potenzialmente Golden State può anche giocare con un quintetto piccolo, ma a mio avviso l'importanza del rim protector sotto canestro può risultare decisiva ancora oggi nel 2017. Seppur non siamo più nell'epoca di Olajuwon, di Ewing, di Shaq, Mutombo, Robinson e Alonzo Mourning a competere contemporaneamente per la supremazia nella Lega. Inutile dire inoltre che valuteremo necessariamente anche le panchine come un unico insieme. Partiamo quindi dalle guardie e quindi dal backcourt. Golden State può schierare il duo potenzialmente più letale nella NBA con Steph Curry e Klay Thompson. C'è da dire che se l'MVP della scorsa regular season ha elevato in termini di decisività le sue prestazioni in questa post-season, dall'altra parte abbiamo già ripetuto fino allo sfinimento come Klay Thompson appaia fuori dalle gerarchie di squadra in questa fase, soprattutto in conseguenza a percentuali di tiro alle quali non ci aveva abituato negli ultimi tempi. È innegabile che se Curry non è solo tiro da tre, anzi risulta letale nel modo di giocare il suo pick and roll e principalmente spostare la difesa in conseguenza alla sua pericolosità dietro l'arco, ma anche con la consapevolezza che penetri rapidamente ed efficacemente molto spesso e con ottimi risultati, contemporaneamente c'è anche da dire che Thompson risulta comunque fondamentale nell'altro lato del campo, quello difensivo, dove presumibilmente si occuperà di Kyrie Irving nei momenti che contano. Sempre parlando di difesa, se pensiamo a Curry visualizziamo uno dei migliori ladri di palloni nella Lega e di conseguenza il pressing di Golden State può proprio basarsi sull'efficacia difensiva delle sue due guardie. Dall'altra parte, Kyrie Irving è ottimo tiratore, temibile penetratore e, a livello di passaggi, indubbiamente il playmaker più puro dell'otto. Efficace nei momenti che contano e con in mano sempre l'ultimo tiro potenzialmente vincente, dividerà il reparto probabilmente con J.R. Smith. Quest'ultimo ricopre fondamentalmente il ruolo di specialista offensivo dall'ottimo tiro perimetrale. Ha dimostrato di poter eccellere anche in difesa e la sua proverbiale testa calda sembra essersi data una raffreddatina. Malgrado questo, anche volendo mettere sullo stesso piano Steph Curry e Kyrie Irving a livello di efficacia, e pur considerando il pessimo Klay Thompson di questi playoffs, tra quest'ultimo e J.R. Smith, con tutto l'amore del mondo, non c'è competizione. Reparto guardie, quindi netto vantaggio per i Golden State Warriors, secondo me. Reparto ali, invece, situazione più complessa. Due coppie che perfettamente possono fondersi producendo parziali vantaggi per il proprio team. Innegabile che la sfida tra LeBron James e Kevin Durant è il top visibile a livello di basket mondiale nel ruolo. Difficile sempre definire sulla singola sfida chi può essere il migliore, viste le distinte atipicità di gioco dei due. Va detto che Durant non è apparso al 100% ad ora nei playoffs, mentre LeBron li sta giocando in maniera già detta devastante. Contemporaneamente, guardando agli altri due, innegabile che Draymond Green è il giocatore decisivo nello scacchiere degli Warriors. Gioca sporco, provoca, la sua grinta ha pochi eguali e per quanto possa apparire sgraziato, è capace di eccellere in tutte le posizioni di gioco. Contenere la sua vena più selvaggia e lavorando sulla sua concentrazione può essere il fattore decisivo. Di contro Kevin Love, oltre ad essere importantissimo al rimbalzo, può giocare piuttosto bene sia dentro e soprattutto fuori dalla linea dei tre punti. Se offensivamente si mantiene su medie dignitose, con un apporto pari a quello che sta dando in questa postseason, può dare un vantaggio a Cleveland in questo reparto. Quindi, a livello di ali, tra un LeBron super e un Love continuo, e un Green instabile e un Durant non al pienissimo della forma, io vado con i Cleveland Cavaliers. Capitolo centro. Se pensiamo a Pachulia titolare, il vantaggio non può che pendere dalla parte di Tristan Thompson e di Cleveland. Ora, intendiamoci, Zaza non è esattamente un intimidatore, ma a livello fisico ci sa fare e probabilmente anche a livello di gioco sporco, chiedete a questo proposito a Greg Popovich. In realtà l'atletismo di Thompson è destinato a sovrastarlo e ulteriormente a livello di intimidazione difensiva un Tristan Thompson meno picchiatore risulta comunque più temibile secondo me in caso di trovarselo di fronte in una potenziale penetrazione. Le cose cambiano se pensiamo invece al già valore McGee versione playoffs, visto fino ad oggi. La sua esuberanza, principalmente offensiva, e quelle braccia lunghissime possono essere importanti in potenziali parziali e definiti momenti di gara, come tra l'altro già visto nelle serie precedenti. Ora, apparentemente la sfida incrociata vede nei centri l'anello debole di entrambe le squadre, ma chissà, proprio per questo potrebbero giocare un ruolo importante nei momenti chiave della serie, che non necessariamente sono l'ultimo tiro, ma i parziali decisivi per arrivarci a quell'ultimo tiro e giocarsi il risultato, soprattutto quando si gioca fuori casa. In ogni modo, vantaggio a mio avviso anche in questo caso dalla parte di Cleveland. Parliamo infine di panchine. Cleveland si è ben attrezzata nel definibile mercato di riparazione di metà stagione. Kyle Korver è importantissimo nell'economia della squadra, anche se non segna troppo, anche in caso tiri male. Se è in serata è una garanzia, perché è capace di tirare 6 volte da dietro l'arco in catch and shoot e segnarne 5. Contemporaneamente, considerata la sua pericolosità e la sua capacità di far tanto movimento, è importantissimo nel muovere le difese avversarie, a maggior ragione in una squadra dove un penetratore strepitoso come Irving o un plenipotenziario come LeBron possono attaccare il ferro a loro piacimento. Ma Cleveland ha anche preso Deron Williams, che nella sua carriera qualcosina ha fatto vedere e che può essere cambio di lusso per dar fiato a Kyrie, ed è anche il motivo per cui LeBron lo ha voluto ardentemente. Non dobbiamo dimenticarci anche di un giocatore potenzialmente d'impatto, sempre decisivo come Channing Frye e il suo tiro dietro l'arco, lo scorso anno tra l'altro grande assente effettivo nelle rotazioni delle finals. Eppure di Imam Shumpert, giocatore che personalmente ritengo spesso più dannoso che altro, ma che può offrire minuti di qualità difensiva e fiammate offensive momentanee, anche se il prezzo da pagare è il rischio di qualche contemporaneo disastro a livello di scelte e valutazioni. Nel roster c'è anche un Derrick Williams che a tratti ha stupito al momento del suo arrivo a metà stagione, eppure il grande vecchio Richard Jefferson, che porta con sé esperienza importante, ricordiamocelo a proposito, proprio nel quarto periodo della sfida di Natale tra queste due squadre. Insomma, sulla carta la panchina di Cleveland è stata modificata e plasmata durante la stagione per offrire un ottimo numero di alternative e soluzioni e quindi per risolvere eventuali imprevisti in materia di problemi di falli o acciacchi. Dall'altra parte, la panchina dei Warriors conta molto nella forma effettiva di Andre Iguodala, che può offrire esperienza e qualità in entrambi i lati del campo se in forma. Inoltre c'è anche quel matto di Matt Barnes, che può offrire respiro a patto di controllarsi ed inevitabilmente sarà provocato e può promettere scintille. C'è anche la mano educata e l'esperienza di David West. Potenzialmente anche Ian Clark può offrire qualche minuto di qualità, così come Patrick McCaw, ma indubbiamente in questo reparto sulla carta il vantaggio di Cleveland in materia di soluzioni impattanti è stavolta netto. Tutto quindi farebbe intendere che il mio pronostico favorisca il back-to-back dei Cavs sul tetto del mondo. Tuttavia c'è da valutare un altro piccolo fattore, che lo scorso anno ha determinato l'inizio della serie, ma che in definitiva non è risultato assolutamente decisivo: il vantaggio campo. L'anno scorso i Warriors si sono portati agilmente in vantaggio 2-0 dopo le prime due gare, per poi perdere in gara 7. Quest'anno la presenza di un Durant in più a far fronte ad eventuali pessime serate dei due altri top scorer della squadra può essere un fattore. Occhio quindi se la serie non va a Cleveland sull'1-1. Inoltre, se valutiamo l'impatto offensivo dei Big Three a confronto, è innegabile che quelli in dotazione ai Warriors siano potenzialmente più decisivi, soprattutto se in serata al tiro. Possono aprire parziali devastanti da non ritorno per gli avversari, soprattutto in quelle fiammate tipiche in cui Golden State pressa a metà campo, gioca di anticipo e punta le triple in transizione. Cleveland deve lavorare per evitare di subire strappi simili e puntare sulla maggiore fisicità, per quanto il potenziale dietro l'arco anche per loro non sia assolutamente da sottovalutare. Andrò probabilmente in controtendenza, ma pronostico i Cleveland Cavaliers magari in 7 partite. Anzi, diciamo così, mi auguro le 7 partite e credo che Cleveland, come lo scorso anno, abbia solo quella possibilità per mettersi il secondo anello della loro storia al dito. Chiaramente questo è il pronostico più difficile dei playoffs. Playoffs già definiti prevedibili e lo sbaglierò in maniera totale e fragorosa. Comunque ripeto, vado con Cleveland magari in 7, magari come lo scorso anno, e quindi compiendo il sacrilegio di giudicare la giunta di Durant in casa gialloblu totalmente ininfluente in materia di risultato finale a fronte di un rafforzamento più capillare nei dettagli della panchina dei campioni in carica. Staremo a vedere di quanto mi sbaglierò e se mi sbaglierò. Vi rinnovo quindi l'appuntamento a seguire quelle che saranno inevitabilmente le ultime puntate di NBA Week, tutti i venerdì sera nel flusso streaming di Radio Big World alle ore 21.30 e sul canale YouTube di Belli 13. Ovviamente ricordo anche la nostra pagina Facebook NBA Week con tutti gli aggiornamenti del caso ed il nostro blog medium.com/NBA Week. Ci sentiamo la settimana prossima con la cronaca e l'analisi delle prime gare di NBA Finals. join the drive.